номер телефона. Осуществляем полное техническое обслуживание автономных отопителей, элеватор, эко-спикер, теплостанция НАР. Предлагаем установку новых и восстановленных отопителей по самым оптимальным ценам. Ремонт ваших отопителей с гарантией 6 месяцев. Наличие новой ИБУ, запчасти, элеватор и эко-спикер. Режим работы с 9 до 20 часов. Телефон для связи 8-911-926-41-43. 926-41-43. 926-41-43. Повтор блока через 30 минут. Ciao, ascolta, la messa ti stai ascoltando, ascoltati la messa, su canale 2000. Yeah. E fatti anche il segno della croce, e poi fate una piccola preghierina, che non fa male, anzi fa bene all'animo. Mi sto prendendo il sole al primo venire. si dice che per una Siberia, boh. Sì, c'è un po' di vento al centro, là, calmato, rispetto agli veri, in casa rimane la Maria d'Areva. Va, oh, signor, io adesso fra un po' mangio, sto sempre a durori, mamma mia. Se devo venire così, lascia perdere. Ormai ho fatto il callo. Lo so. Già, te lo dico un altro momento, la situazione. Delle penso che sia brutta, però. Pensi che sia brutta? Ma dai, già passerà tutto il bene. Vediamo cosa vuoi che ti dica. Ho fatto un'ecografia, 150 euro mi è costata. E tanto il gruppo manco ti risponde, quando ti risponde ti dici che non va a lui. So che devo andare a pagamento ma famiglia, che è una cosa urgente. Avanno, lo so che devo buscare l'uni lucoso alla dottoressa. Quello siciliano. Lì, Tommy. Già stai mandando di veggia. Può esserlo una parente. Non c'è nessuna frequenza. Tutti molti sono. Tutti sono tornati alle zone. Non c'è nessuno, io ho so poco fame perché no, non ne ho voglia di parlare, che sono tutto messo male. Io perché ho sentito a te mi sono entrato proprio a casa intesa a te, chiamendo. Prossime, dai, così mi si goppi a chi lo bravo su di oggi. Faccio dalle 10:30 a oggi, a notte, e alle 5:30 devo essere già a lavoro. Andà bene, me, da cosa vuoi ti dica? Io adesso mangio e poi mi sto subito coricando perché non ne ho voglia, almeno mi riposo un po'. Ci sentiamo alle prossime, Emanuele, dai. Se infatti adesso mangio e poi mi curico subito, non ne ho voglia, dai. Ci sentiamo alle prossime. Choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo cho